guardare ogni sera le stelle, fantasie del nostro destino, solo una ne senti vicino, ti scalda il cuore ma muore al mattino. Pensare a quando si è avuta quella gioia di breve durata, poi andata volata su un cielo, tra le stelle l'hai ritrovata. Han detto che tutte le stelle sanno del nostro destino, di ogni amore e la sua storia, sia essa bella o annegata nel vino. Se riesci ancora a dormire, senti ancora ciò che hai avuto, sogna ora, non lasciarti morire, ogni istante non va mai perduto. Alla fine felici e contenti, nelle favole diventa normale una vita priva di stenti, dove l'amore è quasi banale. Nei racconti la fantasia, con eroi in foreste incantate, svolge sempre con la magia tutti i testi di temi inventati. Non serve la finta emozione per restare in ogni momento personaggio per sola funzione, essere uguale sempre nel tempo. Il segreto rimane nel cuore, nella luce della tua stella, sempre viva ti ricorda l'amore, tra le storie la fiaba più bella.